Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno e benvenuti alla 10ª puntata del Pinsimonio, in cui andremo ad approfondire delle parole legate al fatto di non capire, che sono mistificare, traviare, travisare, fraintendere e pervertire. Cominciamo con mistificare, che deriva da una parola francese che in origine aveva il significato di prendere in giro. Mistificare significa alterare per lo più deliberatamente la realtà dei fatti o anche una situazione o un concetto in modo da suscitarne un'interpretazione distorta. Un esempio è mistificare la verità o spesso le ideologie mistificano la natura dei rapporti umani. In senso non comune, mistificare indica anche l'ingannare una o più persone carpendo nella buona fede. Il participio presente è mistificante, anche usato come aggettivo, per esempio una politica mistificante, e il participio passato è mistificato, usato anche questo come aggettivo, per esempio una cultura mistificata. Continuiamo con traviare, che letteralmente significa allontanare dal cammino intrapreso e in genere far uscire di via o deviare. In senso figurato indica l'allontanare da una linea di condotta, da un metodo di vita, in particolare e più comunemente allontanare dal retto cammino dell'onestà, pervertire, trascinare al male, corrompersi moralmente. Il participio passato è traviato, che è frequente come aggettivo usato in senso morale. Molti ricorderanno anche una famosa opera di Verdi che è La Traviata. Un altro termine legato al non comprendere in modo corretto è travisare, che letteralmente indica l'alterare il viso o l'aspetto. Usato per lo più in modo riflessivo, travisarsi, trasformare intenzionalmente il proprio viso o l'aspetto in modo da rendersi irriconoscibili o trarre altri in inganno. In senso figurato significa il far apparire diverso dal vero qualcosa, narrare, esporre, interpretare in modo contrario o diverso da quello giusto, come travisare la realtà storica. Fraintendere invece indica l'intendere una cosa per l'altra o interpretare in modo diverso dal giusto. Hai frainteso le mie parole. L'ultimo termine è pervertire, che deriva dal latino pervertere, che propriamente significava sconvolgere o mettere sotto sopra. Pervertire indica quindi il mutare in peggio o disporre in modo radicalmente diverso. Oggi il termine è usato quasi esclusivamente con riferimento alla sfera morale, sociale o psichica, per determinare una deviazione o un mutamento in senso deteriore, per esempio pervertire i cuori o le anime. E sperando di aver spiegato in modo chiaro il significato di questi termini, vi rimando a domani, vi aspetto sempre su Radio Città Fujiko e vi auguro un buon proseguimento su Radical Pop. La base di oggi è gentilmente offerta da Fulvio della Ragù Records, che si scrive con due O e che potete trovare su Facebook, Bandcamp e SoundCloud. Ascolta il Pinsimonio su Radio Città Fujiko dal lunedì al venerdì dopo la rassegna stampa di Radio Zanardi, oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinsimonio Radiofonico. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale e la ritrasmissione in rete o l'invio in qualunque forma. Grazie e buona giornata. Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio.